Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Elsa Galbato legge Bellamy di Guy de Maupassant, traduzione di Giorgio Caproni. Erano passati 3 mesi. La sentenza di divorzio era stata pronunziata da poco. La moglie di Duroy aveva ripreso il cognome di Forestier e, dovendo i Valter partire il 15 luglio per Trouville, si decise di passare una giornata in campagna prima di separarli. Georges, pallidissimo, guardava spesso Suzanne, pallida anche lei. I loro sguardi si incrociavano. Pareva si intendessero, si incomprendessero, si scambiassero segreti pensieri per poi subito sfuggirsi. La signora Valtera era tranquilla, felice. Il desinare fu lungo. Prima di ripartire per Parigi, Georges propose di fare un giretto sulla terrazza. Georges e Suzanne si tennero indietro. Appena furono distaccati di qualche passo, lui le disse piano, rattenendo la voce: «Suzanne, io l'adoro. Io l'amo fino a perdere la testa». Lei mormorò: «Anch'io, Bellamy». Lui soggiunse: «Se non riuscirò ad averla in sposa, lascerò Parigi e la Francia». Lei rispose: «Provi allora a chieder la mia mano a papà. Forse non le dirà di no». Lui fece un lieve gesto d'impazienza. «No, glielo ripeto per la 10ª volta, è inutile. Mi chiuderebbe in faccia la porta di casa sua, mi caccerebbero dal giornale e noi non potremmo più vederci. Ecco a che bel risultato son certo approderei con una domanda in perfetta regola. Lei è stata promessa al marchese de Casolles. Sperano in un suo prossimo sì, e intanto aspettano». Suzanne domandò: «Che si può fare allora?» Lui esitava guardandola di sottecchi. «Mi ama al punto di commettere una pazzia?» Rispose risoluta: «Sì». «Una grossa pazzia?» «Sì». «Se la sente d'affrontar suo padre e sua madre?» «Sì». «Davvero?» «Sì». «Bene. Allora un mezzo c'è, l'unico. Occorre che l'iniziativa parta da lei, non da me. Lei è una bambina viziata. Le è lecito chiedere tutto quello che vuole. Una sua domanda ardita in più non desterà troppe meraviglie. Mi ascolti. Stasera, tornata a casa, andrà prima dalla mamma, quando è sola, e le confesserà che vuole sposarmi. Sarà un colpo per lei e andrà su tutte le furie». Suzanne lo interruppe. «Oh, la mamma dirà subito di sì». Lui riprese vivacemente: «No, non la conosce. Si irriterà e si infurierà più di suo padre. Rifiuterà senz'altro, vedrà. Ma lei terrà duro, non mollerà. Le ripeterà che vuol sposare me, soltanto me e nessun altro. Lo farà?» «Lo farò». Lasciata sua madre, dirà la stessa cosa al babbo con tono serio e risoluto: «Sì, sì, e poi?» «E poi qui sta il difficile. Se lei è decisa, ben decisa, decisissima a esser mia moglie, mia cara piccola Suzanne, io la rapirò». Lei fece un balzo di gioia e per un pelo non batté le mani. «Oh, che bellezza! Mi rapirà! E quando mi rapirà?» Tutta la logora poesia dei rapimenti notturni, delle sedie di posta, delle locande, tutte le affascinanti avventure che si leggono nei libri, le balenarono ad un tratto in mente come un sogno ammaliatore, pronto ad avverarsi. Ripeté: «Quando mi rapirà?» Lui rispose con un soffio di voce: «Ma stasera, stanotte». Lei domandò fremente: «E dove andremo?» «Questo è un mio segreto. Pensi bene a ciò che fa. Dopo la nostra fuga non potrà essere la moglie di nessun altro. È l'unico mezzo che abbiamo, ma è molto rischioso per lei». Suzanne dichiarò: «Ho deciso. Dove ci incontreremo?» «Può uscir sola dal palazzo?» «Sì, so aprire la porticina». «Bene, quando il portinaio sarà andato a dormire, verso mezzanotte, mi raggiunga in Place de la Concorde. Mi troverà in una carrozza ferma davanti al Ministero della Marina. Verrò, Veramente, veramente. Non appena il Landò fu arrivato nel cortile del palazzo, i Walter tentarono di trattenere Georges a cena, ma lui rifiutò e se ne tornò a casa. Uscì di nuovo verso le 11, girellò un poco, prese una vettura e la fece fermare in Place de la Concorde, lungo i portici del Ministero della Marina. Di tanto in tanto accendeva un fiammifero per veder l'ora. Quando mezzanotte fu vicina, la sua impazienza si fece febbrile. S'affacciava ogni momento al finestrino per guardare. Un orologio lontano scoccò 12 rintocchi, poi un altro più vicino, poi due insieme, poi un ultimo lontano lontano. Quando questo ebbe finito di suonare, pensò: addio, è andata male, Suzanne non verrà. Era tuttavia deciso a restar lì fino all'alba. In certi casi bisogna usar pazienza. D'un tratto, una testolina di donna si infilò nel finestrino e domandò: «È lei, Bel Ami?» Sobbalzò e si sentì mancare il respiro. «È lei, Suzanne?» «Sì, sono io». Non riusciva ad abbassar la maniglia con la sveltezza che avrebbe voluto e continuava a ripetere: «Ah, è lei, è lei!» «Entri!» Suzanne entrò e gli si abbandonò sul petto. Lui ordinò al vetturino: «Andiamo?» E il legno s'avviò. Suzanne era ansante, non parlava. Lui domandò: «Beh, com'è andata?» Allora lei mormorò lì lì per svenire: «Oh, è stato terribile. Mamma soprattutto». George era sulle spine e fremeva d'impazienza. «La mamma? Che ha detto? Mi racconti?» «Una cosa tremenda. Sono entrata nella sua stanza e le ho recitato la lezioncina che avevo imparato così bene. È impallidita, poi ha urlato: mai e poi mai. Io ho pianto, ho fatto una sfuriata, ho giurato che non avrei sposato nessun altro. A un certo punto ho avuto l'impressione che mi volesse picchiare, sembrava impazzita. Ha detto che mi avrebbe rispedito in collegio l'indomani stesso. Non l'avevo mai vista così, mai. Udendola snocciolare tutte quelle assurdità, è arrivato il babbo. Non si è arrabbiato come la mamma, si è limitato a osservare che lei non è un buon partito. Furibonda, ho urlato più forte di loro e papà m'ha detto di prendere la porta con un tono drammatico che proprio non gli si confaceva. Così mi son decisa a scappare con lei. Eccomi qua. Dove andiamo?» «È troppo tardi per prendere il treno. Questa carrozza perciò ci porterà a Sèvres, dove passeremo la notte. E domani partiremo per la Roche-Guyon. È un bel paesetto sulla Senna, fra Mantes e Bonnières». A un tratto gli parve di scorgere qualche lacrima negli occhi di lei. Domandò terrorizzato: «Che ha, mia cara piccina?» Suzanne rispose con voce molle di pianto: «Penso alla mamma, poveretta, che a quest'ora non dormirà di certo se si è accorta della mia partenza». Sua madre, infatti, non dormiva. Uscita Suzanne di camera, la signora Walter, rimasta lì a guardare il marito, domandò sgomenta, spaventata: «Dio mio, che significa tutto questo?» Walter gridò fuor di sé: «Significa che quel maneggione l'ha abbindolata. È stato lui a indurla a rifiutare Casol. Gli fa gola la dote, per Dio!» Si mise a passeggiar su e giù nella stanza rabbiosamente e aggiunse: «Ma anche tu, che cercavi di continuo d'attirarlo, di lusingarlo, di coccolarlo, gli smammolamenti non ti sembravano mai abbastanza. E Bel Ami qui, e Bel Ami là, da mane a sera. E ora eccoti ripagata!» Lei mormorò livida: «Io? Attirarlo io?» Lui le gridò in faccia: «Sì, proprio tu! Avete perso tutta la testa per lui, la Marelle, Suzanne, tutte quante. Credi che non me ne fossi accorto che non potevi star 2 giorni senza farlo venir qui?» Lei eresse il busto tragica: «Non ti permetto di parlarmi a questo modo. Non son mica figlia di bottegai come te!» E scalza, per non far rumore, reggendo una candela, si diresse verso la camera della figlia. Aprì pian pianino, entrò, guardò il letto. Era intatto. Lì per lì non capì e pensò che la ragazzina stesse ancora discutendo col padre. Ma tosto un dubbio atroce la sfiorò e corse dal marito. ci arrivò d'un balzo, sbiancata in volto e ansante. Walter era coricato e stava ancora leggendo. Domandò spaventato: «Beh, che c'è? Che hai?» Lei balbettò: «Hai visto Suzanne?» «Io? No, perché?» «Se n'è andata! In camera sua non c'è!» Lui saltò giù dal letto, si infilò le pantofole e, senza mutande, con la camicia svolazzante, si precipitò a sua volta nella stanza della figliola. Data un'occhiata, non ebbe più alcun dubbio. Era fuggita. S'accasciò su una poltrona e posò il lume per terra davanti a sé. Gemette: «È finita! È in mano sua! Siamo rovinati!» Lei non capiva. «Come rovinati?» «È per Dio! Ora dovrà sposarla davvero!» Lei lanciò un urlo come d'una belva. «Lui? Mai! Sei ammattito!» Walter rispose triste: «È inutile urlare, non serve a nulla. L'ha rapita, l'ha disonorata!» «Mai e poi mai! Mai avrà Suzanne! Non lo permetterò mai!» «Ma è già sua! Cosa fatta capo a!» «La terrà nascosta finché non avremo ceduto. Tanto vale, se vogliamo evitare uno scandalo, cedere subito. Dobbiamo piegarci.» «Ah, mascalzone, come ci ha giocati bene! È in gamba, però! Come posizione avremmo potuto trovar molto di meglio, ma in quanto a intelligenza e ad avvenire, è un uomo che ha un domani. Sarà deputato e ministro un giorno.» La signora Walter dichiarò con belluina energia: «Mai gli lascerò sposare Suzanne! Mi senti? Mai!» Lui finì con l'andare in bestia e col prendere da uomo pratico le difese di Bellamy. Lei avrebbe voluto urlare, rotolarsi per terra, strapparsi i capelli. Disse ancora inviperita: «Non l'avrà! Io non voglio!» Walter si alzò, tirò su il lume e rispose: «Sei una scema come tutte le donne. Agite sempre soltanto per passione. Non sapete adattarvi alle circostanze. Siete tutte delle sceme. Io invece ti dico che la sposerà. È necessario!» E uscì strascicando le pantofole. Attraversò, comico fantasma in camicia da notte, l'ampio corridoio del vasto palazzo addormentato ed entrò senza far rumore in camera sua. La signora Walter se n'era rimasta lì in piedi, straziata da un intollerabile dolore. Non capiva ancora bene, d'altronde. Soffriva soltanto. Poi pensò che non poteva rimanersene inerte fino all'alba. Sentiva violento il bisogno di fuggire, di correr via a casaccio, d'andarsene, di cercare aiuto, d'esser soccorsa. Cercava con la mente chi avrebbe potuto invocare. Quale uomo? Non trovava nessuno. Un prete, già, un prete! Gli si sarebbe gettata ai piedi, gli avrebbe confessato tutto, il suo fallo e la sua disperazione. Costui avrebbe capito, certo, che quel miserabile non poteva sposare Suzanne e lo avrebbe impedito. Le ci voleva un prete, subito. Ma dove trovarlo? Dove andare? Così, ad ogni modo, non poteva starsene. Le passò allora davanti come una visione la serena figura di Gesù che cammina sulle acque. Lo vide come se avesse avuto davanti il quadro. Gesù, dunque, la chiamava, le diceva: «Vieni a me, vieni a inginocchiarti ai miei piedi, ti consolerò e ti ispirerò quello che dovrai fare.» La povera donna camminava ad agio, impressionata dalle tenebre, dove apparivano, al lucore vagante della candela, piante bizzarre con parvenze di mostri, di esseri umani, piene di capricciose deformità. D'un tratto scorse il Cristo. Aprì la porta che lo separava da lei e cadde in ginocchio. Pregò con tutta l'anima sua. Balbettò parole d'amore, invocazioni appassionate e disperate. Poi, placatosi lo zelo della preghiera, alzò gli occhi verso il Salvatore e fu presa da angoscia. Nel tremulo lume che lo rischiarava appena e dal basso, la rassomiglianza con Bellamy era perfetta e lei ebbe l'impressione che non Dio, ma il suo amante stesse guardandola. Suoi erano gli occhi, sua la fronte, sua l'espressione del volto, suo quel sembiante freddo e altero. Balbettava: Gesù, Gesù mio, Gesù! Ma alle labbra le saliva la parola Georges. D'improvviso pensò che in quello stesso istante forse Georges stava possedendo sua figlia. Era solo con lei, chissà dove, in una camera. Lui, lui con Suzanne! Andava ripetendo Gesù, Gesù mio! Ma il suo pensiero non si staccava da loro, da sua figlia e dal suo amante. Erano soli, in una camera e di notte. Lei li vedeva così distintamente come se fossero lì al posto del quadro. Si sorridevano, si baciavano, la camera era in penombra, il letto già dischiuso. Si alzò in piedi per muover verso di loro, per acchiappar sua figlia pei capelli e strapparla da quell'abbraccio. Stava per afferrarla alla gola, per strangolarla, sua figlia che odiava, sua figlia che si dava a quell'uomo. Già la toccava, ma le sue mani incontrarono la tela, urtarono contro i piedi del Cristo. Lanciò un grido e cadde supina. La candela, abbattutasi, si spense. Sorto il sole, raccolsero la signora Voltaire lunga distesa, priva di sensi, semiasfissiata, davanti al Gesù che cammina sulle acque. Stette così male che si temé per la sua vita. Soltanto l'indomani riacquistò intero l'uso della ragione. Allora si mise a piangere. La scomparsa di Suzanne fu spiegata dai domestici con un improvviso invio in collegio e Voltaire rispose a una lunga lettera di Duroy accordandogli la mano della figlia. Bellamy aveva imbucato l'epistola al momento di lasciare Parigi. L'aveva preparata prima, la sera della sua partenza. Vi diceva in termini riguardosi che amava da un pezzo la giovane, che fra loro non c'era mai stato nessun accordo, ma che vedendola venire a lui del tutto spontaneamente per dirgli «sarò tua moglie», si riteneva autorizzato a tenerla presso di sé, a nasconderla magari fino a quando non avesse ottenuto una risposta dai genitori, la cui legittima volontà aveva per lui minore importanza della volontà della fidanzata. Chiedeva a Voltaire di rispondere fermo posta. Un amico gli avrebbe fatto avere la lettera. Ottenuto quanto desiderava, riportò Suzanne a Parigi e la rimandò dai suoi, astenendosi per qualche tempo da parte sua dal presentarsi. Avevano trascorso 6 giorni sulla riva della Senna, a La Roche-Guyon. La ragazza non s'era mai divertita tanto. Aveva giocato a far la villanella. Lui l'aveva fatta passare per una sua sorellina e vivevano in un'intimità libera e casta, in una sorta di dimestichezza amorosa. Georges aveva giudicato abile rispettarla. L'indomani stesso del suo arrivo lei s'era comprata della biancheria e dei vestiti da contadinotta e s'era messa a pescare alla lenza con un immenso cappellone di paglia ornato di fiori campestri. Georges, vestito con un giubbotto comprato fatto in un negozio locale, portava a spasso Suzanne sia a piedi lungo la riva sia in barca. Si baciavano ogni momento, frementi, lei piena di innocenza e lui sempre sul punto di soccombere. Ma sapeva esser forte, e quando le disse «Torneremo a Parigi domani, il babbo m'ha accordato la tua mano», Suzanne mormorò ingenuamente «Di già, mi piaceva tanto essere la tua donnina». Elsa Galbato ha letto Bellamy di Guy de Maupassant, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.